E intanto rimaniamo all'ascolto di questa band inglese. Loro sono i Rubella Ballet, band che è esistita nei primi anni Ottanta, che si definivano anarco-punk hippie. Sì, e arriviamo a parlare di ciò che è successo all'ospedale San Camillo di Roma, dove è morto Abdel Latif, un giovane 26enne tunisino che era stato portato lì praticamente da CPR di Ponte Galeria per presunti disturbi psichiatrici. Ed è morto questo ragazzo dopo essere stato legato al lettino per 3 giorni. Allora, su questa vicenda qua vorrei leggere un articolo molto interessante che è apparso su Urria, Senza frontiere, senza galere, un blog. L'articolo si intitola Contenzioni ed espulsioni, ingranaggi nella società dell'esclusione, fa quindi non solo, diciamo, una cronaca non solo di questo fatto, ma anche di altri precedenti, ma anche un'analisi. Ci dicono i compagni di Urria: mentre mettevamo insieme i pezzi per questo articolo, la realtà ha superato le atrocità che ci apprestavamo a raccontare. Abdel Latif, un giovane proveniente dalla Tunisia, viene ucciso il 28 novembre, dopo 3 giorni in stato di contenzione meccanica nell'ospedale San Camillo di Roma. Il razzismo di Stato è tentacolare e Abdel Latif dell'Italia ha visto la segregazione in un hotspot a Lampedusa, la prigionia su una nave quarantena, la reclusione nel centro di espulsione di Ponte Galeria a Roma, la contenzione nel reparto psichiatrico del San Camillo. Due delle prigionie che hanno portato alla morte di Abdel hanno come sfondo il sistema sanitario italiano. Per il resto, come garanzia, ci sono gli attori dell'accoglienza umanitaria. Le recenti mobilitazioni contro la contenzione psichiatrica ci hanno suggerito alcune riflessioni e abbiamo cercato informazioni riguardo il dibattito sulla contenzione meccanica, pratica che lo Stato dichiara di voler abolire con un percorso triennale che dovrebbe terminare nel 2023. È da notare come negli stessi carteggi istituzionali le valutazioni partano da dati e note risalenti al 2001 e come dalle stesse analisi si arrivi a raccomandazioni e suggerimenti che da allora e dopo 20 anni non hanno avuto alcun riscontro pratico, si continua a morire nella violenza. Ogni documento istituzionale è costretto a prendere in considerazione la lesione delle libertà individuali, la tortura, l'inefficacia in termini di miglioramento delle condizioni di salute e il peggioramento della persona sottoposta a contenzione meccanica fino a determinarne la morte. Protocolli che partono dall'assunto che non è un atto sanitario né un atto medico, non avendo nessuna finalità terapeutica, diagnostica o lenitiva del dolore, confermano la natura violenta della cura psichiatrica e l'aumento dello stigma sociale per chi ha delle difficoltà. ma al giorno d'oggi non esiste alcun monitoraggio di queste pratiche di tortura nelle strutture psichiatriche, figuriamoci nelle carceri, nelle RSA, cioè nelle strutture per gli anziani, o nei CPR. Già in passato veniva suggerito, non imposto, un registro per tenere nota delle ragioni, delle modalità e delle tempistiche dietro ogni contenzione. Non serve grande immaginazione per credere che il tutto avvenga con la violenza fisica, la sedazione e l'abbandono, perché i sostenitori della contenzione meccanica ritengono che il pericolo per l'incolumità degli operatori sanitari e la mancanza di personale siano delle buone ragioni per torturare e ammazzare le persone. Convinzioni che le istituzioni non hanno neanche modo di paragonare ad altre strutture sanitarie che non utilizzano la contenzione meccanica perché la discrezionalità è immensa e senza controllo. Nelle linee guida che lo Stato dichiara di voler adottare per superare la contenzione meccanica, oltre alla formazione del personale, c'è la trasparenza e l'accessibilità agli affetti e ai familiari delle persone trattenute nelle strutture psichiatriche, poiché parte della contenzione consiste nella reclusione. Ora, guardando all'ultima persona uccisa dalla contenzione, probabilmente questa vicinanza affettiva sarebbe stata comunque impossibile, data la blindatura delle frontiere. Il controllo psichiatrico attraverso la somministrazione coatta, volontaria e involontaria di psicofarmaci riguardi la vita delle persone detenute nei centri di espulsione, non siamo di certo i primi a saperlo. Le persone recluse hanno sempre denunciato la presenza di psicofarmaci nel cibo e gli stessi farmaci come unica cura proposta oltre la tachipirina. Un opuscolo recentemente pubblicato da NoCPR Torino ricapitola la gestione sanitaria attuale nei CPR e fa un chiaro riferimento al controllo psichiatrico. In passato abbiamo anche raccontato di iniezioni forzate di psicofarmaci nel CPR di Ponte Galeria e una querela da parte della cooperativa Auxilium ha comportato il sequestro preventivo della pagina che riportava l'articolo. Ma quali altri aspetti del controllo psichiatrico riguardano le violenze a cui vengono sottoposte le persone immigrate? Oltre ai sedativi, la contenzione meccanica è utilizzata nelle procedure di espulsione in molti paesi europei e non. Fascette di plastica, scotch per legare mani e piedi e chiudere la bocca, caschi, cinghie, sedie con legacci, un inventario agghiacciante che ha portato alla morte di diverse persone, alcune conosciute per le proteste avvenute in seguito, come Semira Adamu, ammazzata con un cuscino in faccia su un volo Air France mentre veniva deportata dal Belgio in Nigeria, e Jimmy Mubenga, soffocato su un volo di espulsione UK diretto in Angola. Conclusioni. Le mobilitazioni contro la contenzione meccanica descrivono chiaramente la tendenza riformatrice a nascondere la violenza psichiatrica e il pericolo della sostituzione con una maggiore contenzione farmacologica, in un paese convinto che l'elettroshock e i manicomi appartengano al passato. Mentre la delegazione del Garante, entrata a Ponte Galeria, si dice intenzionata a fare chiarezza sulle cause di morte di Abdel Latif e si domanda se la contenzione porti alla morte, noi crediamo che la chiarezza ci sia già. Tutti muoiono per arresto cardiaco, ma lo stigma e la criminalizzazione spingono all'isolamento e nell'assenza di relazioni si è sottoposti a qualsiasi trattamento. Sappiamo dalle voci e dai racconti delle persone coinvolte che sono gli stessi meccanismi di controllo delle frontiere e poi gli stessi luoghi istituzionali di segregazione e isolamento, navi, hotspot, centri di accoglienza, CPR, reparti psichiatrici, che creano le condizioni di una forte sofferenza psichica, creano una immane sofferenza allo stress di non riuscire a partire per migliorare la propria vita, il dover reperire migliaia di euro per pagarsi un viaggio, con la responsabilità di non deludere i familiari, gli amici e la speranza di inviare presto soldi a casa, la paura durante una traversata dove si rischia la vita e si vedono morire compagni e compagne, le torture subite nei lager e all'arrivo in Italia. Quando si pensava di avercela fatta, altre procedure rese ancora più incomprensibili, perché in una lingua diversa, altre galere e violenze, nell'isolamento più assoluto, come nei CPR, dove non è possibile nemmeno sentire telefonicamente la voce dei propri cari. I tentativi di protesta contro questo sistema disumano spesso sono repressi, ricorrendo appunto a motivazioni sanitarie, etichettando chi reclama libertà come un folle da sottoporre a trattamento sanitario obbligatorio e contenzione. Davanti all'ennesima uccisione non deve cadere il silenzio. Questo appunto era questo articolo di approfondimento che potete andare a leggere, a rileggere e anche a leggere i link. ce ne sono parecchi che fanno riferimento anche proprio ai carteggi istituzionali, che sono significativi da leggere. Li potete trovare appunto nel blog di Urria. Ormai rimaniamo ancora all'ascolto di questa band che anche abbiamo ascoltato in sottofondo durante l'intervento. Loro sono, come ho detto, una band inglese, Rubella Ballet. Questo è il loro primo album, datato 1985, e come appunto avevo detto prima, band che si autodefiniva anarcho-punk hippie. E riprendiamo qui a Zernis Magnetics a parlare sempre di questa morte in stato di contenzione di Abdel Latif, un ragazzo tunisino che appunto si trovava nel reparto psichiatrico dell'ospedale San Camillo di Roma dopo aver essere passato per tutte le strutture coercitive di detenzione amministrativa compreso il CPR di Ponte Galeria, dando lettura del volantino che i solidali insomma hanno distribuito durante un presidio che si è svolto proprio a Roma davanti all'ospedale San Camillo. E, beh, intanto dico che tutte queste letture che ho fatto e che farò le potete comodamente riascoltare andando nel blog Zernis Magnetics Radio noblogs.org, e così anche tutte le sfumature insomma e richiami anche ai testi scritti li potete trovare lì. Allora, il volantino si intitola "Basta morte nei reparti psichiatrici, aboliamo la contenzione". Abdel Latif, ragazzo tunisino di 26 anni, era arrivato in Italia tramite una delle tante navi che cercano di approdare, fortunate per non essere state respinte. L'accoglienza, tra virgolette, che gli è stata riservata a lui come a tanti e tante altre, è stata quella di essere rinchiuso in un CPR, un centro di detenzione per migranti, nel quale vieni portato per un reato terribile: non avere il documento giusto. Abdel rimane nel CPR svariati giorni. A un certo punto, da quanto appreso dai giornali, gli viene diagnosticato un disturbo psichiatrico, di cui non aveva mai avuto segni in Tunisia, e gli vengono dati dei farmaci. Dopo pochi giorni la cura, sempre tra virgolette, pare vada rafforzata e Abdel viene trasferito al reparto di psichiatria, prima del Grassi di Ostia, poi al San Camillo. Qui viene tenuto legato al letto per 3 giorni, dal 26 al 28 novembre, giorno in cui muore. Le autorità mediche parlano di arresto cardiaco, non facendo alcun riferimento né ai farmaci somministrati né al fatto che fosse stato contenuto per almeno 72 ore. Questa storia ci riporta a 2 verità purtroppo già note. Nei reparti psichiatrici italiani si continua a morire di contenzione meccanica, sia in regime di degenza che durante le procedure di TSO, trattamento sanitario obbligatorio. Il CPR è un luogo di detenzione e come tale si fonda sulla violenza e sulla sopraffazione. La morte di Abdel non è una storia isolata. Molti e molte hanno subito la sua stessa sorte. Citiamo solo gli ultimi di cui siamo a conoscenza: Guglielmo Antonio Grassi, morto nel reparto psichiatrico dell'ospedale di Livorno; Elena Casetto, arsa viva perché legata, sempre in un reparto psichiatrico. Ma l'elenco sarebbe lungo, nonostante di molte persone non si conoscano nemmeno i nomi. Contenzione meccanica e farmacologica sono pratiche diffuse anche nei CPR, nei carceri, nelle strutture che ospitano persone anziane e o non autosufficienti. Negli ospedali, in nessun caso la carenza di personale può giustificare il ricorso a pratiche coercitive. La logica dei motivi di sicurezza, dello stato di necessità o delle persone aggressive, a cui sovente si fa appello nei reparti, deve essere respinta poiché fondata sul pregiudizio ancora diffuso della potenziale pericolosità della pazzia. Molti ritengono, per atteggiamento culturale o per formazione, che sia giustificabile sottoporre persone diagnosticate come malate mentali a mezzi coercitivi, che sia nell'ordine delle cose e corrisponda al loro stesso interesse, rimuovendo dal loro orizzonte il valore imprescindibile della libertà della persona, tanto più rilevante quanto più attinente alle libertà minime, elementari e naturali, come quella di movimento. Oltre al ricorso alla contenzione meccanica e farmacologica, continua ancora oggi a prevalere nei servizi psichiatrici un atteggiamento custodialistico e l'impiego sistematico di pratiche e dispositivi manicomiali: obbligo di cura, porte chiuse, gratte alle finestre, sequestro dei beni personali, limitazione e controllo delle telefonate e di altre relazioni e abitudini. Lo stato di pandemia ha inoltre rafforzato l'isolamento e la distanza tra chi è tenuto rinchiuso, rinchiusa, e chi non lo è, accrescendo le violenze perpetrate all'interno di quelle mura, siano esse del carcere, dei CPR, dei reparti di psichiatria. Ribadiamo la necessità di eliminare, senza alcuna eccezione, la contenzione meccanica nelle istituzioni sanitarie, assistenziali e penitenziarie italiane. Continueremo a lottare con forza contro ogni dispositivo manicomiale e coercitivo, obbligo di cura, trattamento sanitario obbligatorio, uso dell'elettroshock, contenzione meccanica, farmacologica e ambientale, eccetera. E per il superamento e l'abolizione di ogni pratica lesiva della libertà personale. Continueremo a lottare contro i respingimenti, i rimpatri, le espulsioni, le frontiere, per la libera circolazione di tutte le persone, per un mondo senza frontiere, senza psichiatria, senza coercizioni. Questo era il volantino curato da senza numero noblogs.org e da urria noblogs.org. E in sottofondo stiamo ascoltando questa band inglese, gli Electro Hippies, band che ha avuto una durata breve, 3 anni circa, ma nel frattempo hanno fatto uscire ben 2 album, di cui noi ci stiamo ascoltando questo loro The Only, che si intitolava The Only Good Punk Is That One, e comunque band punk che è stata precursore di molte altre band inglesi del death metal, tra cui appunto all'inizio, tra questi Electro Hippies, uno dei fondatori degli Carcass, per esempio. Comunque loro sono gli Electro Hippies. E non ho detto, comunque anno dell'uscita 1987. Sì, e continuando a parlare di abusi psichiatrici, di contenzione, di psichiatria messa al servizio proprio dell'oppressione e della coercizione delle persone all'interno delle istituzioni totali, e vale la pena di parlare anche di questa sezione psichiatrica del carcere di Torino, la sezione chiamata Sestante, che è, di cui si è parlato abbastanza, diciamo così, due settimane, 20 giorni fa, perché c'è stata Susanna Marietti, che è la coordinatrice dell'associazione Antigone, quindi di un'associazione super democratica che non può essere accusata di diffamazione né di istigazione a delinquere, che ha fatto questa visita in questa articolazione psichiatrica dell'Istituto Russo Cotugno di Torino, e ha descritto in maniera, ha descritto ciò che ha visto. Insomma, vale la pena di leggere quello che lei dice, sì, la sua descrizione, perché è molto significativa, cioè non ci sono commenti, e poi perché è meglio anche tenere a mente queste cose, considerando che anche a Udine, nei vari progetti faraonici che sono previsti per ristrutturazione del carcere di Via Spalato, della sezione femminile nello specifico, si ventilava anche l'ipotesi del farne una articolazione psichiatrica. Attenzione, che quando si fanno queste cose si sa purtroppo dove si va a parare. Ci dice quindi Susanna Marietti, dal Fatto Quotidiano del 21 novembre 2021. Ho visitato la sezione psichiatrica del carcere di Torino. Vi è una sezione chiamata Sestante, che funge da articolazione psichiatrica dell'istituto. Mi auguro che qualche giornalista legga quello che sto per raccontare e che in tanti decidano di andare là dentro a vedere, che pretendano di portare con sé le videocamere per mostrare a tutti cosa accade in quelle quattro mura. Ci hanno detto che stanno per fare dei lavori di ristrutturazione. Non basta, sono anni che Antigone, anche attraverso i suoi rapporti annuali, denuncia le condizioni di vita interne, ma nulla è cambiato. Specificamente i rapporti ci sono dal 2008. Al Sestante si trovano circa 20 celle, 10 su ogni lato del corridoio. In ciascuna è reclusa una singola persona detenuta. La cella è piccola, sporca, quasi completamente vuota. Al centro vi è un letto in metallo scrostato e attaccato al pavimento con i chiodi. Sopra è buttato un materasso fetido, a volte con qualche coperta e a volte no. Qualcuno, ma non tutti, ha un piccolo cuscino di gomma piuma. Non vi è una sedia né un tavolino, solo un piccolo cilindro che sembra di pietra, dove ci si può sedere in posizione scomodissima. L'intera giornata viene trascorsa chiusi là dentro, senza nulla da fare e nessuno con cui parlare. Unico altro arredo, un orrendo bagno alla turca posizionato vicino alle sbarre, di fronte agli occhi di chiunque passi per il corridoio. Noi ci siamo, intende noi di Antigone, ci siamo passati. Abbiamo dovuto insistere un po' affinché ci aprissero il cancello della sezione. Ci siamo passati per quel corridoio e abbiamo guardato dentro ciascuna di quelle stanze detentive. Ognuna teneva dentro un essere umano, ma certamente trattato in maniera contraria a quel senso di umanità, vabbè, che la nostra Costituzione chiede alle pene legittime. Alcuni erano solo dei mucchietti di stracci buttati immobili sulla branda. In una cella vi era un uomo sdraiato al buio sul pavimento. Nessuno lo tirava su di là. In un'altra vi era un ragazzo che stava in piedi con la faccia a pochi centimetri dal muro. Non si è girato al nostro passaggio, teneva i palmi delle mani rivolti verso l'alto, all'altezza delle spalle. Parlava verso quella parete, ogni tanto si girava verso il letto, poi tornava a rivolgere la faccia al muro e parole a chissà che cosa. Barcollava e aveva gli occhi a mezz'asta, nessuno ci faceva caso. Qualcuno si è avvicinato alle sbarre al nostro passaggio. Un uomo mi ha chiesto se potevo fare in modo che la turca della sua cella venisse aggiustata. Erano 4 giorni che non scaricava le sue feci, mi ha spiegato. L'ho detto al poliziotto del reparto. Un altro uomo era al buio, si è sporto dalle sbarre e mi ha detto che avrebbe voluto un po' di luce. Il poliziotto che era con me, un po' imbarazzato, gli ha detto di accenderla con l'interruttore interno, che sicuramente avrebbe funzionato, ma lui ha detto di no, mancava proprio la lampadina. Mi sono fermata per capire chi avesse ragione, effettivamente la luce non si accendeva. Non so da quanti giorni quel signore fosse al buio, dalle 4:30 di pomeriggio fino all'alba del giorno dopo. Un giovane uomo si teneva stento in piedi sulle gambe, aveva un filo di bava che gli colava sulla blusa, gli occhi semichiusi, come se stesse per addormentarsi in piedi da un momento all'altro. Ha tentato di pronunciare qualche parola rivolto a me, che mi ero fermata lì davanti, faceva fatica ad articolare i suoni. Ha balbettato la parola avvocato. Gli ho chiesto se avesse avuto modo di parlare con il suo legale. Si è chinato e da un mucchietto di carte per terra ha preso un foglietto con un numero di telefono. L'ho copiato sul mio quaderno e gli ho detto che l'avrei avvisato che si trovava lì. Mi è stato spiegato che l'uomo era a Torino per un periodo di 30 giorni di osservazione psichiatrica, mandato lì da un altro istituto. Non so cosa si possa osservare e diagnosticare in un uomo imbottito di farmaci fino al punto da non riuscire a parlare e a reggersi in piedi. Nell'ultima cella, prima dell'uscita, c'era un ragazzino, avrà avuto 25 anni, gli ho chiesto come andasse. Le lacrime hanno cominciato a scendergli dagli occhi, mi ha detto che non capiva perché fosse lì, che gli mancava sua madre e che aveva tanta paura tutte le notti. Mi ha pregato di farlo trasferire, gli ho spiegato che non avevo alcun potere in questo senso, ma mi sono fatta dare il numero di telefono della mamma, che lui sapeva a memoria. Gli operatori mi hanno spiegato che erano in attesa che si liberasse un posto in una REMS, le residenze a vocazione sanitaria, per l'esecuzione delle misure di sicurezza psichiatriche. Il ragazzo non avrebbe dovuto trovarsi lì. Non c'era titolo per la sua detenzione. Sono uscita e ho chiamato la madre. Era contenta che almeno qualcuno avesse visto suo figlio. Lei non c'era riuscita, nessuno le aveva detto dove lo avessero portato. Adesso si apprestava a recarsi a Torino. E vabbè, poi insomma questa signora Susanna Marietti continua, insomma, vabbè, dicendo quello che fanno, che non fanno le autorità locali o centrali, eccetera. Ma insomma, credo che la sua descrizione sia più significativa di tutti i commenti che si possono fare. E sicuramente va tenuta in considerazione anche alla luce delle cose che possono succedere qui. Nonsense, but no one's ever seen the size of how it's going. E stiamo ascoltando ancora questa band inglese, gli Electro Hippies, dal loro album datato 1987, The Only Good Punk Is a Dead One. E band, appunto, come ho detto prima, precursore a quel genere death metal stile Crash, Carcass e Napalm Death, che infatti tra questi c'era un componente dei futuri Carcass. Comunque noi rimaniamo ancora all'ascolto per questi Electro Hippies. Bene, lasciamo questi inglesi Electro Hippies e passiamo ad una band italiana più recente. Loro sono i La Raie e questo è il loro album su CD, completamente autoprodotto e rigorosamente in formato CDR. Comunque questi sono La Raie e il titolo di questo album è Regalasi la propria vita ai padroni. Oh yeah! rimaniamo sempre con questa band italiana, La Raie, che sono di Ascoli Piceno, da questo loro CD completamente autoprodotto che si chiama Regalasi la propria vita ai padroni. Sì, e prima di riprendere così un po' il discorso parlando dei misfatti carcerari in Friuli, riprendiamo un attimo, sempre rimanendo in collegamento col discorso dei trattamenti sanitari, diciamo, all'interno delle carceri e in generale delle strutture totali, delle istituzioni totali. Riprendiamo un articolo un po' vecchio che è del 19 novembre scorso, che parla di telemedicina all'interno appunto delle carceri, considerata come un miglioramento dell'accesso alle cure nelle carceri. Qualche settimana fa avevo letto un articolo che titolava PNRR, Piano Nazionale di Annientamento, insomma, di ogni resistenza umana, dove si descriveva un po' le tendenze appunto della telemedicina, quindi questa spersonalizzazione dell'approccio medico, questa distanza sempre maggiore tra appunto paziente e curante, e questa tendenza, insomma, al distanziamento e all'annientamento delle relazioni. Questa cosa che fa orrore a livello nella società, diciamo, non reclusiva, e comunque si sta, cioè che insomma diventerà sempre peggio e comunque già adesso è causa di molte di situazioni gravi che succedono dal punto di vista sanitario, viene visto però invece come una toccasana per le carceri. E c'è stato su questo argomento della telemedicina e del teleconsulto, sono stati argomento di un convegno che si è svolto a Roma appunto in novembre. E che cosa emerge da queste persone, questi insomma cattedratici o notabili che hanno partecipato a questo convegno? Allora, è stato evidenziato che nelle strutture penitenziarie manca il personale e le risorse adeguate per garantire all'interno tutti i servizi necessari. Non è facile organizzare scorte e traduzioni per portare fuori i detenuti. Non tutte le carceri sono vicine a un ospedale e molti grandi istituti sono piuttosto isolati. In un quadro simile, invece di provvedere, insomma, far sì che le persone recluse vengano curate come tutte le altre persone, dovrebbero essere curate, e in un quadro simile invece la conclusione è: la telemedicina ed in generale un rafforzamento di tutti i servizi digitali dovrebbe essere scontato e dovrebbe essere auspicabile. Quindi questa convention che si è tenuta a Roma ha avuto questo obiettivo di avviare un dibattito su questo tema di telemedicina e teleconsulto all'interno delle carceri, ma anche, e qui scatta insomma l'inquietante parallelismo, anche nelle RSA, cioè nelle strutture per anziani non autosufficienti. E appunto hanno parlato del contributo che questi nuovi strumenti possono apportare per migliorare la qualità di cura della salute di detenuti e anziani, che sono i detenuti delle case di riposo. E poi hanno dato dei dati sanitari che sono abbastanza interessanti. Allora, Antigone dà questi dati, però la fonte è il DAP: 70% dei detenuti ha almeno una malattia, il 70% fuma, quasi il 45% è obeso o sovrappeso, oltre il 40% è affetto da almeno una patologia psichiatrica, il 14,5% da malattie dell'apparato gastrointestinale, l'11,5% da malattie infettive e parassitarie. Circa il 53% dei nuovi detenuti è stato valutato a rischio suicidio. E dunque, vabbè, vediamo che cos'altro si può dire su questa cosa della telemedicina. Sì, una cosa interessante, cioè appunto agghiacciante ma interessante nella sua mostruosità, è che Sergio Pillon, non so se è parente di quell'altro Pillon, aiuto, coordinatore della trasformazione digitale dell'azienda sanitaria locale di Frosinone, ha spiegato che la telemedicina negli istituti penitenziari funziona bene solo se è una costola della telemedicina dell'azienda sanitaria che eroga i servizi clinici. E poi ha sottolineato come la telemedicina abbia un ruolo importantissimo per gli aspetti psichiatrici. Stiamo sviluppando un progetto pilota per le REMS, dice questo Pillon, residenze per l'esecuzione e misure di sicurezza, che tramite un sistema di teleconsulto consente di avere uno psichiatra presente anche dal suo smartphone H24, che interagisce con il paziente e con gli infermieri presenti nella struttura. Parallelamente stiamo avviando un percorso di teleconsulto psichiatrico e cardiologico per gli istituti penitenziari della nostra azienda sanitaria locale. Ecco, queste affermazioni, insomma, messe vicine alle lettere che abbiamo ricevuto dai detenuti in questi anni, dove spiegano lo stato di abbandono totale e questi teleconsulti fatti con Wikipedia praticamente per propinare comunque sempre la tachipirina agli psicofarmaci, fa veramente rabbrividire. E comunque ci dice quello che sono queste strutture, cioè le strutture detentive irriformabili, non possono essere migliorate in alcun modo, e anche che cosa sono i soggetti umani che se ne occupano istituzionalmente, anche questi irriformabili e non possono migliorare in alcun modo. Non aggiungo altro. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah società, bomba a letto di farmaci, iniziato alla testa di uomini che non hanno fatto nulla per volerlo, senza nemmeno aver potuto evitarlo. E in sottofondo, come anche in precedenza, abbiamo ascoltato questa band, la RAI, band di Ascoli Piceno, e che e tra l'altro il brano che stiamo ascoltando si chiama TSO Pirata, e comunque sono tutti brani tratti dal loro album completamente autoprodotto per questa band narcopunk che si intitola Regalasi la propria vita ai padroni. E intanto ora invece, finita questo brano, andiamo all'ascolto di questa band belga dei primi anni 90, anche a fine anni 80 si era formata, loro sono gli Hiatus e questo è il loro album From Resignation to Revolt. Loro sono, come ho detto, gli Hiatus e questo è il loro album datato 1993, tra l'altro primo loro album. Sì, arriviamo appunto alle disgrazie carcerarie di Udine e Tolmezzo. Beh, prima leggevamo appunto questo articolo sulla telemedicina, quindi si può dire che c'è una specie di filo conduttore, cioè dalle Pantegane praticamente alla telemedicina all'interno degli istituti penitenziari, da condizioni di degrado ambientale totale a questi miraggi appunto transumanisti della telemedicina. In verità, come abbiamo già detto insomma in altre occasioni, le ristrutturazioni tecnologiche che siano o comunque pratiche, materiali, senza in sé per sé non vogliono dire niente, non migliorano assolutamente niente. Cioè la condizione di degrado rimane anche in una, così, cavalcando appunto miraggi tecnologici o tecnicisti. Ecco, comunque a Udine siamo ancora lontani anche dalla semplice condizione sanitaria igienica base all'interno della struttura detentiva, e leggiamo dal Messaggero Veneto della situazione che si è venuta a creare, un focolaio appunto di Covid-19 all'interno del carcere di Udine. In alcuni articoli si parla di 13 positivi, però poi in un altro si fa riferimento a una lettera che i detenuti hanno scritto a uno studio legale, dove parlano di 15 positivi. E in questa lettera appunto i detenuti protestano per le condizioni igienico-sanitarie dell'istituto, e dicono che non c'è stata assolutamente cura nel trasferimento delle persone risultate positive e nel successivo passaggio di cella, diciamo, tra positivi e negativi, mancanza di sanificazioni, 6 detenuti in celle di 12 metri quadri, le solite cose che purtroppo non sono nuove. Il sovraffollamento appunto è drammatico. Le stesse istituzioni dicono che in un luogo dove dovrebbero stare non più di 90 persone ce ne sono 140 in questo momento, ma ci sono stati momenti in cui erano anche 160. E insomma, comunque i prigionieri di Via Spalato non hanno scelto comunque di far emergere questa cosa, di protestare contro questa situazione. Speriamo che la protesta dilaghi e che non demordano. In questa situazione, vi ricorderete, ne abbiamo parlato qualche settimana fa, il convegno che è stato fatto in sala Iate. Noi abbiamo fatto un presidio, diciamo, di controinformazione all'esterno, che parla di questo progetto milionario di ristrutturazione dell'ex sezione femminile del carcere, che dovrebbe portare a tutta una serie di migliorie. Tra le varie cose era previsto anche la costituzione di un consiglio di detenuti, che doveva essere presenziale, diciamo, alla presentazione ufficiale di questo progetto di ristrutturazione. Ecco, una delle conseguenze di questo focolaio di Covid-19 è che questi detenuti non potranno partecipare come consiglio, ma, cosa ancora più grave, direi molto, molto più grave, non potranno più godere dei colloqui con le persone care, e nemmeno di attività con figure esterne al carcere, insomma attività laboratoriali e queste cose qua, e le solite cose che si ripresentano come nel 2020, insomma chiusura totale del carcere, come se la causa del contagio possa essere imputata ai parenti o comunque agli amici, le persone che vanno a colloquio. Sappiamo che non è così, che i contagi avvengono attraverso, spesso e volentieri attraverso gli operatori che lavorano all'interno del carcere, non attraverso i parenti. In tutti i casi, in questa situazione drammatica, il garante Corleone invita tutti i detenuti a fare il vaccino, ad aderire al vaccino per evitare la diffusione del virus, cosa che insomma non è corretta, in quanto una persona vaccinata può trasmettere il virus, magari può avere effetti meno gravi se sono persone con fragilità, però può trasmettere il virus. Quindi questo dire che la soluzione per placare il focolaio è di vaccinarsi è una grande cazzata, e comunque si risolve così, dicendo fate questo, e non cercando di trattare in maniera migliore le persone all'interno della struttura e di appunto applicare delle norme sanitarie e igieniche migliori. You and woman living to see all the way. Eccoci di nuovo e chiudiamo in bruttezza con il carcere di Tolmezzo, e sempre così prendiamo la notizia dai giornali, dal Messaggero Veneto. Allora, Tolmezzo, sapete, carcere di massima sicurezza, sezione di 41 bis, insomma carcere che ha avuto, diciamo l'anno scorso, ha avuto una percentuale altissima di detenuti positivi, anche una persona è morta di Covid all'interno. E beh, insomma, carcere che è una vergogna per tanti aspetti, e lo è stata anche in vari anni. Ci sono state tantissime situazioni gravi, insomma, denunciate. C'era questa, se ne è parlato parecchio lo scorso anno, di questa situazione di internati che hanno finito di scontare la loro pena, anche pene durissime al 41 bis, che però non possono uscire dalla galera, e in quanto viene riconosciuta loro una pericolosità sociale che non permette a loro di ritornare in libertà. Ecco, per diciamo fare il ricamo finale su questo abominio, nel cortile interno dell'istituto penitenziario di Tolmezzo è stata costruita una grande serra, leggo dall'articolo, che verrà a breve utilizzata da 4 dei detenuti che, caso unico in Italia, pur avendo scontato la pena, per la loro riconosciuta pericolosità sociale non possono tornare in libertà. Quindi queste persone saranno ulteriormente relegate all'interno di una serra e non potranno tornare in libertà. Quindi per oggi, insomma, le cronache dall'orrore sono finite. Io lascio alla regia il compito di dare i contatti, e alla prossima. Mandy. One of us. Yeah, I wanted to do something. I wasn't going to just stand there, you know, and I know everybody felt the same way. If you saw someone getting attacked by the police, you weren't going to just sit back and let them get arrested and get hurt and beaten up. You got in there and tried to fight back, and you know, together, everybody was really together. That was the best thing about it. Felt like, you know, we were all helping each other and all fighting back. Ed sfumiamo un po', anche se duole il cuore, a fare questa azione per questa band che merita veramente l'ascolto. Loro erano i belgi Hiatus, questo era il loro album datato 1993, From Resignation to Revolt, band appunto tra i precursori del crust punk, anarcho punk nel periodo, credo assieme ai Doom, anzi tant'è che hanno fatto pure un album split queste due band, gli inglesi Doom e questi belgi Hiatus. Comunque, al di là di questo, siamo appunto giunti al termine di questa trasmissione che è Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica dagli studi di Radio Onde Furlane a Udine. Stiamo trasmettendo sui 90 MHz e il programma inizia alle ore 20 e termina alle 21:30. Appunto, abbiamo pochissimi minuti di tempo per ricordare i nostri contatti, innanzitutto ricordiamo che potete riascoltare questa trasmissione e anche le precedenti che sono avvenute nei mesi scorsi nel blog che si chiama zardinsmagneticsradio.noblogs.org. Ripeto, zardinsmagneticsradio.noblogs.org. Ed inoltre, se volete scriverci tramite posta elettronica, potete farlo alla casella postale Libere Tutti, @autistiche.org. Ripeto, la posta elettronica Libere Tutti, @autistiche.org. Ed inoltre, se volete invece scriverci nel metodo cartaceo, potete farlo intestando la lettera o qualsiasi altra cosa ad Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34121. Ripeto anche questo indirizzo: Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro, codice di avviamento postale 34121, Trieste. Bene, ciao a tutti, al prossimo giovedì, e vi lascio ancora con questi Hiatus. Let's go.